Benvenuti. Ci possiamo sedere, sì. Abbiamo preparato questo set, così un po' estivo di ultima domenica, però di fatto non volevamo mettervi in imbarazzo. Poi non ho capito questi occhiali. Ti hanno ordinato. Papà, okay. Io penso che adesso puoi anche toglierli. mamma, sei bellissima con questa ghirlanda. Non trovi che siamo un po' tipi da spiaggia oggi? Ma io direi che tutte e quattro siamo messi bene. Sì, è molto importante. Volevo solo chiedere una cosa. Si può chiudere il panno così non si vede niente? Ah, sei lì? No, ma tu, lei è una donna bellissima, siamo felici di averla sul palco. Veramente. Siete così tanti, mamma mia. Senti, Angela, spero... Comunque vi voglio bene. Lo so che ci vuoi bene. Angela, ti voglio togliere subito dall'imbarazzo, così faccio subito una domanda a te. E volevo un po' farmi i fatti vostri un po' di più, perché è bello sapere un po' i fatti di famiglia, ci apparteniamo, sappiamoceli un po'. Nel frattempo, se ti puoi rilassare, abbiamo anche dei cocktail, puoi bere qualcosa. Ma questo vale non anche per colpa. Me. Vito, posso berlo anch'io? Sì, va bene. Grazie. Angela, voi vi siete conosciuti tanti anni fa, no? Non tantissimi, perché non vogliamo sapere sempre tutti i fatti nello specifico, però sono molto curioso di sapere, in realtà, non tanto quanto vi siete incontrati, però nello specifico, che cosa ti ha fatto innamorare di lui, Stefano, insomma? Sono curioso pure io. Mi dispiace, mentre è andata male. Aspetta, faccio una domanda più precisa, ma tu sei innamorata ancora di lui? Sì, okay. Questo sì, okay. Confermo. Ma se no chiudiamo tutto, confermo. Andiamo a casa. Ma cosa mi ha fatto innamorare di Stefano? Mm. Io ci ho pensato, ma la risposta è non lo so. Non lo so perché mi Beh, sono innamorata. Beh, io direi chiesa che noi ce ne andiamo. Noi, io mi ricordo, eravamo giovani e lui aveva 18, io avevo 17 anni. Mi sa che abbiamo anche una foto. Ah, vediamo. Sì, è vero. Sì. Stefano, sei tu sul serio? Ok. Ok, cugino di campagna un po'. E quindi dopo, io mi ricordo che dopo gli incontri, come oggi si fanno questi incontri di giovani, uscivamo assieme, andavamo a mangiare un gelato con tutti i giovani e io così mi sono innamorata di Stefano. Praticamente non c'è una cosa che posso dire, mi sono innamorata di Stefano, di questa cosa. Io ci ho pensato, ho detto, ricco non era, non c'aveva niente. Non ci aveva, io lo stesso comunque, aveva una bici, una graziella, sai? E io mi mettevo dietro di lui, cioè non era che aveva una Ferrari e posso pensare, beh, mi sono innamorato di Stefano per la Ferrari, no. Poi è migliorato comunque, aveva... Bene. Sì. Abbiamo un'auto. Aveva un motorino, un Ciao. Che ogni 3 chilometri si fermava e dovevamo scendere, rimettere la catena e da capo sopra, insomma. Però vi posso dire che mi sono innamorata di Stefano, ma poi io e Stefano avevamo anche dei caratteri molto molto diversi, eravamo due cose opposte nel modo di pensare, nel modo di vedere le cose, nel modo di parlare. Eravamo troppo diversi e nessuno avrebbe scommesso anche su di noi, avrebbe puntato su di noi, ma il Signore l'ha fatto e Lui ha vinto. E io ringrazio il Signore che Lui ha vinto, perché Lui vince sempre. Io ti ringrazio. Quello che sono oggi ancora innamorata di Stefano, perché in Stefano ho sempre visto la sua autorità, la sua responsabilità verso la sua famiglia, che lui ha sempre preso. In ogni situazione, situazioni belle, situazioni meno belle, Lui è stato sempre presente per risolvere ogni situazione e io non mi sono mai, mai sentita sola, mai. Io vi voglio anche dire quest'altra cosa, che io non ho avuto un'infanzia, un'adolescenza facile. Io ho avuto un'adolescenza molto difficile, molto particolare, dove il diavolo ha cercato di nutrirmi di tutte le sue bugie. Mi ha nutrito molto molto bene, appunto che ho vissuto anche quelle bugie. E il lavoro che Stefano ha fatto nel mio cuore, con la sapienza e con la saggezza di Dio, guarire il mio cuore, e lo fa ancora oggi. Io se sono qui, seduta davanti a voi, è perché Stefano, con la sapienza di Dio, ha saputo fare questo bel lavoro nel mio cuore. Sono io. Sì. Wow. Bello. Sì, e questo non è perché noi siamo bravi, perché no, assolutamente, questo è solo una grazia di Dio che versa sulle famiglie e vuole versare su ogni famiglia della nostra Chiesa. Sì, forse mamma ha già incominciato a rispondere a quella che doveva essere la domanda per te, papà. Io so che il fondamento, no, del vostro matrimonio è mettere Dio al centro, fare la sua volontà. Quindi papà, come pensi di aver effettivamente realizzato il comando di Dio, ama tua moglie? Mamma, dovresti passare adesso. Stefano, è chiara la domanda? Ti vedo... Stai mandando messaggi a qualcuno? No. Siccome sono tante le cose, allora mi sono scritto quello che credo che per me sia stato più importante. Innanzitutto io credo che ho amato mia moglie, la amo ancora, con il rispetto. Io non le ho mai detto quella là. E non ho mai permesso a nessuno che lo dicesse. Può sembrare una stupidaggine, ma questo ha creato un legame e un rispetto reciproco che non è andato scemando con la confidenza degli anni di matrimonio, ma è cresciuto, è diventato qualcosa di importante. E se io rispetto e ho rispettato mia moglie, ho fatto in modo che anche gli altri lo facessero, e questo ci ha reso sempre più uniti. Io credo di aver amato mia moglie difendendola, e il primo nemico potevo essere io. Può sembrare strano una cosa del genere, però io l'ho difesa dai miei pregiudizi, io l'ho difesa dalla mia sufficienza, io l'ho difesa dalla mia superficialità, facendo in modo che fosse sempre qualcosa di importante per me, e questo poi mi ha aiutato a difenderla anche dagli altri, a difenderla per esempio dalle circostanze difficili che sono venute, dalle abitudini. L'ho sempre difesa, e questo mi fa sentire che l'ho amata. L'altra cosa che mi ha permesso e mi permette di amare mia moglie è la fedeltà. Io sono stato fedele a lei, e fedele anche non soltanto nelle azioni, ma anche nei miei pensieri, anche nelle mie aspirazioni, anche nel sapere che lei era la cosa più importante, il dono più importante che Dio mi ha dato dopo la salvezza. Viene lei, e poi viene la mia famiglia, e poi viene la Chiesa, e poi viene il servire il Signore. Ma rimanere fedeli è qualcosa che aiuta ad alimentare l'autostima. Tu ci credi se sei fedele, ci credi veramente che vuoi bene, e se ci credi tu lo riesci anche a fare. Quindi il rispetto, la difesa e la fedeltà. Fantastico. Fantastico, però, sì. Grazie. Certo che sentito così, e io come figlia me lo permetto di dire, è vero tutta ogni singola parola, ed è bellissimo stare qui e poter dire è vero, io faccio parte, per grazia di Dio, è bellissimo. Però sentita così sembra che sia stato sempre tutto idilliaco, tutto perfetto, che magari non abbiate mai litigato, o non vi siate mai mandati a quel paese sempre nel rispetto. Nell'amore. Nell'amore, chiaramente. Quindi la domanda è questa, ci sono state delle crisi nel corso del matrimonio? Papà, dalla regia dicono di no, ma sentiamo mamma. Questa domanda è per Angela, giusto? Sì, sì. E soprattutto, più che le crisi in sé per sé, ma come le avete superate? Sì, secondo me la chiave della parola crisi si chiama orgoglio. Ed è proprio l'orgoglio che delle volte le famiglie si guastano, si rompono. E questo io l'ho vissuto anche un pochino sulla mia pelle. Sì, è successo quando ci siamo sposati dopo un periodo, proprio per quello che dicevo prima, che lui aveva un carattere, io avevo un altro carattere. Anche quando è successo una volta che ci siamo litigati, allora abbiamo fatto discussione, dopo l'orgoglio prendeva il sopravvento, nel senso no, è lui che deve venire, è lui che deve chiedermi scusa, è lui che ha sbagliato, e dall'altra parte forse c'erano le stesse domande, le stesse aspettative. Ma la cosa brutta è che passavano giorni, passava un giorno, passava 2 giorni, 15 giorni, e poi in questo periodo di giorni si accumulavano sempre altre cose che non c'entravano niente, si accumulavano, e dopo penso una ventina di giorni io mi ricordo che mi sono fermata e mi sono chiesta, ma io perché ho litigato con Stefano? Cioè si stavano accumulando tante cose che non c'entravano niente. E poi proprio la situazione che ci ha portato a litigare, io non me la ricordavo più. E lì ho capito il pericolo dell'orgoglio, perché ho capito che stava succedendo qualcosa che non era bello. E poi così abbiamo parlato e ci siamo promessi che tutte le volte, perché litigare si litiga, è inutile che diciamo che non lo facciamo perché succede, ma in tutte le volte che succedeva questo noi dovevamo pregare, dovevamo trovare subito la soluzione. E questo è quella promessa è quello che ci ha fatto superare tante cose. E poi il fatto di essere anche disposti a chiedere scusa, a chiedere perdono uno all'altro, quello è quello che guarisce. Grazie Angela, io trovo che questo sia bellissimo, non solo all'interno del matrimonio, ma in ogni relazione, specialmente in un contesto come il nostro, che ci definiamo famiglia, abbiamo bisogno di vivere con verità anche questi rapporti, e quindi anche quando ci sono situazioni di tensione è così bello poter capire che c'è una strada percorribile. Abbassare l'orgoglio, a chiedere scusa. E cambiare se stessi per l'altro. È vero. Perché non puoi cambiare l'altra persona, ma te stessa puoi cambiare. Sì. Perché finché l'altra persona, chi ti sta di fronte, il marito, la moglie, non sono dei peccati, ma sono dei difetti che per Dio vanno bene pure per me. Allora sono io che devo cambiare riguardo a Stefano, e Stefano deve cambiare lui riguardo alle cose, ai miei difetti. Immagino che Stefano sia d'accordo e quindi vorrei farti una domanda, Stefano, in realtà, quindi visto che parliamo di matrimonio, io ho una foto del vostro matrimonio, vediamola, è sempre capellone, sempre lui, fantastica. Io trovo che il matrimonio sia un'opportunità, no? Per fare di noi dei cristiani migliori, è sempre questa idea. Però se posso farti una domanda, nello specifico, che cosa ha tenuto in piedi, unito il tuo matrimonio, il vostro? L'80% delle volte sono andato io a chiedere scusa a lei. Diciamolo. Diciamolo che ho fatto, perché il 90% delle volte avevo torto. Quindi il 10% delle volte... Questo merita un applauso, Ma quello che ha tenuto unito il nostro matrimonio, prima di tutto, è stato il proposito. Noi abbiamo voluto tenerlo unito. Non è qualcosa che piove dal cielo, non è qualcosa che succede per caso. È una scelta, è un sacrificio e c'è un prezzo da pagare. Quindi innanzitutto il proposito. E questo è stato abbastanza semplice, perché lo abbiamo sempre reputato come un dono che Dio ci aveva dato. Quindi è diventato più semplice mantenere il proposito di tenerlo unito. L'altra cosa che l'ha tenuto unito, vedi, si cancella, se ne va qua. L'altra cosa che l'ha tenuto unito, molto unito, almeno sto parlando personalmente adesso, riguardo al proposito è qualcosa di reciproco, ma per me personalmente quello che l'ha tenuto unito è che concorre ancora a questo, è il fatto del timore di Dio. Io a un certo punto, abbastanza presto, ho avuto una rivelazione. Non sono molte le rivelazioni che ho avuto, non vi lasciate impressionare da questo fatto, ma alcune cose sì, e molto chiaramente. E Dio mi ha chiaramente detto: vedi che prima di essere tua moglie, Angela è mia figlia. E quindi questo mi ha fatto venire il timore di Dio, giustamente. È andato ad alimentare il proposito di tenere unito il matrimonio, perché ci sono sempre tante scelte, tante opzioni, ma la verità è una sola, quella in cui noi crediamo. E un'altra cosa che ha tenuto unito, e se posso permettermi, ha tenuto anche non soltanto unito ma vivo e felice il matrimonio, è stata la nostra complicità. Noi abbiamo scelto sempre di fare le cose assieme. Mai c'è stata qualcosa che è stato quello che ho deciso io o quello che piaceva a me. È stata sempre condivisa, è stata sempre vissuta assieme. E qualche volta con molto sacrificio, devo dire, per esempio quando dobbiamo essere complici tuttora nell'andare a fare shopping, per me è una sfida, però lo viviamo e lo scegliamo di vivere in questo modo. E quindi fare le cose assieme è stato qualcosa che ci ha sempre tenuto in comunione, ci ha sempre tenuto uniti. Angela ha detto che siamo diversi, siamo molto diversi, siamo più diversi di quello che voi riuscite a immaginare. Molto di più, ci sono poche persone che sanno realmente quanto diversi siamo, però anche le calamite sono diverse, una è positiva e l'altra è negativa. Se le metti vicino si attraggono, più le allontani e più fatica fanno ad attirarsi l'una all'altra. La complicità che noi abbiamo cercato e abbiamo trovato è stato quello che ci ha permesso e ci permette tuttora di rimanere uniti e di essere felici di esserlo. Grazie. Vale per tutte le coppie che si stanno per sposare, quindi un bellissimo invito a tutti quelli che stanno per affrontare questa avventura. Sì, chiaramente il frutto del vostro amore sono i vostri figli, chiaramente. E qui abbiamo... qua sento. Abbiamo due foto. Oh. Mamma, questa chiaramente era la mia. Sei tu Noemi dentro, sì, vero? Sì, era Noemi quella. Vedi, già stavo gridando. Quello sei sempre tu, papà, sì. E poi ce n'è un'altra. E questa è la famiglia al completo. La domanda è questa, chiaramente tante sono le cose importanti nell'educazione dei figli, questa è una domanda per entrambi, se brevemente potete dirci secondo voi quali sono le cose più importanti, secondo la vostra esperienza, nell'educazione dei figli. Dico io qualcosa, allora io penso che quando Dio ci dona dei figli, perché quello è un dono di Dio, ci affida anche una missione, e quella missione è quello di proprio di trasmettere il timore di Dio nei nostri figli, i principi veri, la verità. E quello che io ho vissuto con i miei figli è questo, che questo non è qualcosa che si può dire ai nostri figli, solo dire si fa così, non si fa in questo modo, devi fare questo, non devi fare questo, devi leggere o devi pregare. Questo non basta, è anche buono, però non basta. Quello che è veramente efficace è quando noi abbiamo quello stile di vita nella nostra famiglia, quell'educazione che i nostri figli hanno bisogno, è qualcosa che devono vederla nei genitori, perché se quello che diciamo poi non si manifesta con i genitori, non va bene, i figli nostri vanno in confusione. Allora sono i principi sani che noi come prime persone dobbiamo saper dobbiamo saper guidare in questo modo. E poi soprattutto come noi che abbiamo sempre servito la Chiesa, quindi anche in quel settore dovevamo capire l'importanza di stare con i nostri figli, perché loro si devono sentire importanti, perché non è solo il ministero importante, servire la Chiesa, ma anche i figli nostri devono sentirsi che loro sono importanti, e quindi sapere anche dividere i tempi sia nel servizio e sia stare con i nostri figli. Io mi ricordo una volta Walter aveva 9 anni e lui disegnava i volti delle persone, era molto bravo a disegnare, e lui fece un disegno e mi venne a chiamare, io ero in cucina, e diceva mamma vieni a vedere cosa ho fatto, e in quel momento io gli ho detto no, non posso venire adesso, dopo, adesso c'ho da fare. E in quel momento, in quell'istante, è suonato il campanello. Io e Walter siamo andati verso la porta ed era una sorella, e mi diceva Angela posso entrare perché ti devo parlare. E io sì, come, non puoi entrare? Sì, vieni, ma hai un po' di tempo? Sì che ce l'ho il tempo. Walter mi ha guardato, e questa sorella è qui presente, se lo ricorda, e ha detto a me è detto no. Quel momento, guardate, è successo qualcosa nel mio cervello. E, sì, non vedevo l'ora che andasse via questa sorella, perché io non l'ascoltavo più, cioè io stavo pensando mio figlio nella stanza, che cosa stava pensando. E, quando poi è andata via questa sorella, non mi sono andata a giustificare con mio figlio. Ho solo chiesto scusa e gli ho detto io ho sbagliato, non dovevo fare così. Cioè è importante, perché noi anche se siamo genitori sbagliamo, però è molto bello quando chiediamo anche scusa ai nostri figli, che facciamo vedere che noi sbagliamo lo stesso. Però ecco, in questo facciamo vedere che loro sono, trasmettiamo questi principi, che loro sono importanti. Non è importante, perché dopo hanno un rigetto anche per la Chiesa, per servire, perché se vedono che per noi sono loro meno importanti, la Chiesa è più importante, nasce quel sentimento di rigetto. E poi essere sempre positivi in quello che si dice, soprattutto nella famiglia, perché se i tuoi figli, i miei figli, vedono una mamma e un papà che lodano il Signore, che pregano in chiesa, sono gioiosi, e poi quando tornano a casa criticano quella sorella e il pastore non va bene e questo, quest'altra cosa, loro vanno in confusione. È come se noi gli facciamo delle flebo di veleno. Perché nello stesso tempo, nello stesso modo, anche loro possono reagire in questo modo. Quando non si convertono i figli e noi preghiamo per i nostri figli, forse è buono che smettiamo di pregare per loro e preghiamo per noi, per avere un atteggiamento giusto e vero. È un bellissimo punto di vista, grazie. Per me, visto come maschio, come uomo, il fatto dei figli, gli ho dato un altro tipo di prospettiva. Molte volte i figli, anziché unire la famiglia, la sfasciano, perché i figli diventano il centro della famiglia e non c'è niente di più brutto per un marito sapere che il figlio ha preso il posto suo. E questo succede inconsciamente, perché è bambino, perché ha bisogno. Io devo ringraziare il Signore, ringraziare Angela, perché non è mai stato così. Nel cuore di Angela sono sempre venuto io prima dei miei figli, e lo stesso nel mio cuore è sempre venuta Angela prima dei miei figli. E questo credo sia stato quello che di più ci ha aiutato a dargli un'educazione, perché questo ci ha portato a essere d'accordo, ci ha portato a essere uniti e ci ha portato ad avere sempre di più l'amore l'uno verso l'altro. E con l'amore che avevamo l'uno verso l'altro abbiamo potuto amare i nostri figli, perché non c'è una parte di amore o un'altra parte di amore, c'è l'amore della famiglia. E se questo non funziona bene, non funziona proprio. Quindi io voglio ringraziare Angela perché lei ha saputo fare la moglie, ma ha saputo fare anche la mamma, e non ha confuso i due ruoli, li ha tenuti ben chiari. E questo ha aiutato me come padre a fare, per quel che ho potuto, bene anche il mio ruolo di padre. Ma sono stato a pensare, a riflettere molto dovuto dal fatto che i figli non hanno preso il posto di nessuno, ma sono venuti veramente come qualcosa che ha arricchito. E io mi ricordo che pochissime volte mi sono veramente arrabbiato con loro. Valdre e Gabriele un po' di più. Valdre e Gabriele hanno avuto anche qualche volta mazzata senza fare niente, e gli ho detto: vabbè, conservatele per quando fate qualcosa e non me ne accorgo. Ed è successo veramente. Un credito di grazia. Sì, diciamo. sì, gli ho dato un credito così. Ma Noemi ha avuto un solo schiaffo da me, e che mi fa male ancora dentro quando ci penso, ed è stato quando lei ha mancato di rispetto a sua madre. Solo quella volta è successo, e non è successo mai più. Ma io l'ho potuto fare perché io rispettavo mia moglie, e questo io mi rendo conto oggi che ha veramente educato, come diceva Angela, molto di più delle parole, delle prediche e di quant'altro. Grazie, grazie. Io ho un'altra opinione sul matrimonio, che si costruisce col passare degli anni, no? Il fatto che comunque abbiamo il passare del tempo, costruisce, impariamo, conosciamo sempre di più nella relazione. A proposito, io vorrei anche che celebrassimo una coppia che ha festeggiato i 30 anni di matrimonio. Sono Giovanni e Tina, sono qua. Auguri! Sono qua, eccoli, alzatevi. Che dire, onestamente, Giovanni e Tina, avete superato la media di Hollywood da un po', quindi il vostro matrimonio dura bene. Senti, ma nei vostri anni passati insieme, onestamente, molto velocemente, perché abbiamo finito anche il nostro tempo. È cambiato colore. Posso chiederti, cambieresti qualcosa di tutti questi anni passati? Sì, ci sono diverse cose che cambierei. Innanzitutto tutti gli incidenti d'auto che ho fatto. e le auto che mi hanno rubato, che non erano neanche le mie, lo cambierei molto volentieri. Chiaramente ho fatto un sacco di errori che col senno di poi non rifaresti, ma c'è una cosa che cambierei subito, e cioè io ci ho messo troppo tempo a capire quanto era preziosa Angela per me. Io ci ho messo troppo tempo a capire che in fondo lei è la parte migliore di me, perché il Signore ci ha reso uno, e se ci ha reso uno, questo io l'ho capito dopo, e ho capito che lei è la parte migliore di me, e l'ho capito troppo tardi. Perché? Perché quando io ho capito che lei è la parte migliore di me, ho iniziato a prendermi cura meglio di lei, quindi della parte migliore di me, e questo è andato a guarire il mio cuore anche da tante cose che avevano bisogno di essere guarite, e questo è un lavoro che sta andando ancora avanti. Quindi io, se potessi tornare indietro, abbreverei quel tempo e cercherei di capire prima quanto lei è importante e che valore ha per me. Angela sembra d'accordo. Stavo riflettendo sul fatto che noi, essendo chiesa, appartenendoci l'un l'altro, abbiamo la grazia e il dono di poter imparare dalle esperienze altrui, e quindi dagli errori che magari voi avete fatto, noi generazioni un tantino più giovani possiamo prevenire quegli errori, farne di diversi ma non ripetere gli stessi, come abbiamo sentito domenica scorsa. E questo è anche l'obiettivo, no, di tutta questa giornata. Quindi mamma, se tu avessi un singolo consiglio da dare alle giovani coppie, magari a persone che si stanno per sposare o sono sposate da pochissimo tempo, quale sarebbe questo unico consiglio che tu vuoi lasciarci? In fede, per me, voglio dire. Sì, allora il mio consiglio è per tutte le coppie, anche le vecchie coppie come me, vecchiotte. Io quello che posso dire è rispetto e fiducia, perché nella coppia, quando c'è rispetto e c'è la fiducia, le cose funzionano. Rispetto, la fiducia in quello che si pensa dell'altro, in quello che fa l'altro. Io, breve, non ho tanto tempo, vorrei parlare molto di più riguardo a questo, avrò ancora della possibilità. E poi rispettarsi in quello che si dice, quando, non solo quando si sta bene, perché quando si sta bene è bello, si diciamo tante belle parole, ma quando non stiamo bene, che succede, che si fa una discussione, e poi in quella discussione si possono dire delle cose che vai a rompere il cuore dell'altra persona, che si dicono delle cose che vanno a ferire i sentimenti dell'altra persona, di tuo marito o di tua moglie. E riguardo a questo dobbiamo veramente stare attenti, trovare il dosaggio giusto, l'equilibrio giusto, anche quando noi non stiamo bene. Perché poi si fa pace, è normale che si fa pace, si guarda oltre, si va avanti, però le cose che poi tu vai a rompere nel cuore, che vai a ferire nei sentimenti, quelle cose poi restano, non si riesce a guarire così, perché poi ti rendi conto che passano gli anni, dopo 5 anni, dopo 10 anni che fai da capo discussione con tua moglie, quelle cose vengono da capo tutti fuori, e se vengono fuori quelle cose vuol dire che sono rimasti dentro, che hanno fatto male dentro. Allora cerchiamo anche in questo di capire, di avere un equilibrio, rispettarci, perché è qualcosa di molto bello. È bello rispettarsi nella coppia, nella famiglia e anche con i figli. Benissimo. Noi Abbiamo concluso con le domande, però se c'è, se c'è un ultimo commento che magari vi sentite di fare. Sì, noi come Chiesa crediamo nella famiglia. La Chiesa non è altro che l'insieme delle nostre famiglie. E abbiamo voluto anche avere come slogan benvenuto a casa, benvenuto in famiglia. E vogliamo che questo sia vero, non sia una recita, che veniamo, facciamo la nostra bella recita e poi torniamo a casa e siamo qualcosa di diverso. Però perché questo sia vero, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Da soli non riusciamo, perché se qualcosa di buono è venuto e c'è fra di noi, è perché è un dono di Dio. Non è che noi siamo stati bravi o siamo più bravi di altri. Quindi io vorrei concludere questo momento pregando assieme, proprio con tutte le famiglie, affinché il Signore le possa benedire e possa veramente Lui essere il centro della famiglia e il riferimento, il modello e la risorsa, perché a volte noi le risorse da noi stessi finiscono, ma nel Signore le possiamo trovare, le possiamo rinnovare. Quindi io vorrei che noi pregassimo assieme, vorrei invitare avanti anche quelle coppie che aiutano Angela e me nel servire la Chiesa con i gruppi familiari, che sono un altro modo di fare famiglia, è altrettanto vero, è altrettanto intimo. Quindi io vorrei invitare Angela, Nino, Luis, Milli, Feluccio e Grazia, Rino e Anna a venire qui davanti, e assieme vorrei che preghiamo assieme come famiglie, come Chiesa, per sottomettere noi stessi al Signore e chiedere a Lui di poter fare qualcosa di prezioso, qualcosa di divino nelle nostre famiglie e con le nostre famiglie. Vogliamo alzarci tutti in piedi? Signore Gesù, noi ti vogliamo ringraziare per il dono che tu ci hai fatto della nostra moglie e della nostra famiglia. Ti vogliamo ringraziare del dono che ci hai fatto dei genitori. Signore Gesù, grazie che ci hai dato la possibilità di mettere in pratica, in un modo più semplice, più facile, più bello, l'amare l'un l'altro. Signore, noi veniamo dinanzi a te consapevoli dei nostri limiti, delle nostre paure, dei nostri difetti, del nostro vissuto, e vogliamo mettere ogni cosa dinanzi a te e chiederti di benedire le nostre famiglie, benedire le nostre vite, affinché la nostra Chiesa possa essere una benedizione per la società, possa essere un modello per le persone che ci stanno incontro. Signore, noi non vogliamo avere una recita fra di noi, ma noi vogliamo vivere il tuo comando e vivere quello che tu hai preparato per noi. Per questo ti chiedo di guarire, anche come diceva Angela, là dove i cuori sono rotti, dove ci sono ferite, dove ci sono rammarichi, dove ci sono rimpianti, dove ci sono rancori. Signore, solo tu puoi intervenire con il tuo amore e rendere sufficiente l'amore nostro. Noi vogliamo venire a te e chiederti veramente di essere il Signore della nostra vita, il Signore delle nostre famiglie, il Signore dei gruppi familiari, il Signore della Chiesa, il Signore della nostra città, il Signore della nostra regione. Signore Gesù, che il tuo amore attraverso di noi possa conquistare e cambiare. Grazie Gesù. Amen.